secondi lune di ghiaccio, dal colore del deserto mi son dimenticato chi ero, libero dalle mie abitudini, da solo in mezzo a questo deserto, in cammino verso il nudo vero. Non ho visto che me per miglia, questo è il mio viaggio. La mente libera, io voglio andare, attraversare la dorsale, un vulcano in mezzo al mare, la luna che non sale. Io qui voglio restare fino a domani, finché non dormi. Qui voglio restare con te. Qui voglio restare finché i miei occhi non sono sazi. Qui voglio restare con te. Un viaggiatore, uno come me diverso da me, qui per lo stesso motivo. Cosa ci ha portato qui? Non importa, compagno di viaggio, io la strada ed uno straniero, ma straniero sono anch'io. Libera, io voglio andare, attraversare la dorsale, un vulcano in mezzo al mare, la luna che non sale. Io qui voglio restare fino a domani, finché non dormi. Qui voglio restare con te. Qui voglio restare finché i miei occhi non sono sazi. Voglio restare con te.